Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Si poteva fare di più, c'è chi voleva di più nella legge, questo è quel che c'è. L'unione civile tra persone dello stesso sesso. La potranno dunque contrarre, potranno contrarre l'unione civile due persone maggiorenni dello stesso sesso, non dovranno essere naturalmente né sposate né dovranno avere un'altra unione civile attiva. Entriamo poi nel campo invece che ha creato più confusione, quanto, che poi in sostanza è quanto doveva assomigliare o meno al matrimonio. Allora, sul fronte dei diritti e doveri ci sono una serie di elementi che sono assimilabili. L'assistenza morale, l'assistenza concreta, coabitazione, i congedi parentali, tutto il diritto successorio è il medesimo, reversibilità della pensione c'è. Entriamo invece in quei due no che sono distanti dal matrimonio. La scelta di togliere l'obbligo di fedeltà, e qualcuno anche si è chiesto pesantemente il motivo, ma comunque non ci sarà l'obbligo di fedeltà, non ci sarà soprattutto l'argomento più divisivo. Ecco, questa mattina parliamo nuovamente delle unioni civili. Ne parliamo però con un dato di fatto: ormai c'è la legge, ci sono le unioni civili, dopo quasi 30 anni, 22 anni e passa, anche l'Italia si è allineato su quello che molti dicono il pensiero unico, molti altri dicono ma sì, ma cosa ce ne importa a noi, meglio così, sono tutti contenti, chiunque può comunque unirsi con un'altra persona indipendentemente dal suo sesso, dal suo genere. Le persone tranquille stanno tranquille, non pensano che c'è nessun attentato, non c'è a rischio nessun modello di famiglia, le famiglie tradizionali stanno belle, serene, tradizionalmente unite, affettuosamente legate, eterosessualmente congiunte, perché si dovrebbero sentire messe in precarietà dal fatto che altre persone si possano sposare. Se posso fare una mia personalissima analisi, ma vorrò vedere adesso quante saranno le fanta migliaia di persone che non vedranno l'ora di sposarsi. Qualcuno lo farà perché sarà utile farlo, sarà importante, delle persone che vivono assieme, due uomini o due donne che vivono assieme, è giusto che possano affrontare la vita anche negli aspetti economici, previdenziali, rispetto alla vita futura o la perdita di uno delle due persone che vivono assieme, dormono assieme, mangiano assieme, vanno in vacanza assieme, pensano assieme, guardano assieme la televisione, fanno tutto assieme come qualsiasi altra coppia. Questo trovo sia un passo di civiltà. Però già oggi sale la schiera di quelli che adesso vanno a fare le pulci sulla legge, perché non se ne sono mai interessati, o perlomeno hanno sempre considerato come una sorta di umanità di serie B le persone che volevano sancire anche dal punto di vista civile e legale la loro unione, non essendo benedetti da la possibilità di innamorarsi di una persona di sesso diverso. Beh, oggi dice, beh, come? Non hanno l'obbligo di fedeltà, sembra quasi che qualcuno roda l'anima su questo, non hanno l'obbligo di fedeltà, e come mai, e come sopra e come sotto, non hanno molti, si divorziano semplicemente in pochissimo tempo. Insomma, chi è tradizionalmente sposato, chi è appartenente a un'unione benedetta, comincia a guardare con una punta di invidia coloro che possono fare le unioni civili, che possono separarsi in maniera velocissima, divorziare in tempi assolutamente velocissimi, e poi non hanno questa sorta di occhio divino che li guarda dall'alto in ogni momento, perché non sono obbligati ad essere fedeli. Se vorranno essere fedeli lo saranno, meglio per loro, ma se qualcuno non sarà fedele, questo non comporterà, almeno mi sembra aver capito, alcun margine di persecuzione dal punto di vista penale e civile. 800 24 0024, a tra poco. Melog. Cronache meridiane. Dal disegno di legge sulle unioni civili hanno stralciato non solo la stepchild, ma anche l'obbligo di fedeltà che c'è nel diritto civile, cioè tra le coppie che si sposano in comune per tutti, non solo in chiesa. Se c'è una fedeltà fra due, un uomo e una donna, ci dovrebbe essere pure fra due sessi opposti, giusto? La fedeltà mi sembra una cosa giusta che ci sia. Anch'io ne penso che hanno sbagliato a toglierla, non dovevano toglierla. C'è un dovere che comunque ogni coppia ha nei confronti del proprio partner, quindi non capisco il motivo perché debba essere stralciato. Può venire allargata, diciamo, la fedeltà, io la vedo nel complesso, quindi se siamo fedeli nelle piccole cose possiamo essere fedeli anche nelle grandi cose. In questa legge però l'hanno tolta, secondo lei è giusto toglierla dalla legge? Non è giusto per niente, 800 24 0024, avete sentito da questo Vox Populi? In fondo le persone che hanno fatto salti mortali perché non passasse questa legge, perché fosse messo all'indice chi voleva portare il paese verso la corruzione dei costumi, e chi ha detto che in fondo sì, non ha nulla contro le persone che gestiscono autonomamente la propria sessualità, ma no, l'unione, il matrimonio è una cosa che Dio ha voluto soltanto perché ci sia un uomo e una donna. Beh, adesso però gli rode un po' l'anima, dice: come, adesso questi si sposano e non sono nemmeno obbligati a essere fedeli? Cosa significa questo? Cosa cambia questo? È un punto avanti o un punto indietro? È qualcosa che è sfuggito dall'attenzione del legislatore? È stato fatto apposta per determinare una sorta di dissoluzione a prioristica delle coppie omosessuali, per cui per loro è impossibile essere fedeli perché si sa, sono persone che sono in preda della loro sensualità. Non so domandarmelo, non so chi è, cioè me lo domando ma non so rispondermi. E prego che qualcuno del pubblico mi possa rispondere, o l'ospite che in questo momento stiamo raggiungendo possa dirci qualcosa. Mi sembra che il tema sia piuttosto curioso, sia divertente. Addirittura oggi il giornale titola "Renzi sdogana la bigamia" e c'è un editoriale di Piero Stellino che dice: già l'unione fra coppie dello stesso sesso rappresenta un'anomalia innanzitutto per la cultura cattolica da noi dominante. Ma scusa, la cultura cattolica non è che deve influire quelle che sono poi delle scelte legislative dal punto di vista delle istituzioni dello Stato. Era qualcosa che eravamo indietro di qualche decennio rispetto al resto d'Europa, ci siamo abituati che questa è una soluzione che comunque con cui dobbiamo fare i conti. Dobbiamo far considerare che fa parte comunque della contemporaneità, permettere e accettare che anche le persone dello stesso sesso possano avere una loro unione sancita dallo Stato. Se poi non è benedetta da Dio, sarà un problema di quelli che hanno come loro visione della vita una visione che è illuminata secondo dei principi religiosi, ma non si può pretendere così sia per tutti. Tommaso, buongiorno. Buongiorno, sono Tommaso, buongiorno a lei. Dunque, io penso, sto ripensando a questa legge in questi termini. La legge sulle unioni civili è diretta, e questo è indubbio, è diretta, lo dice nel testo letterale, è diretta a regolare le unioni fra omosessuali e poi le unioni di fatto. Facendo questo ha consacrato il discrimine dicendo che esiste la categoria degli omosessuali che vanno trattati separatamente e in modo diverso da tutti gli altri. Quindi non è un'uguaglianza come vanno predicando Cirinnà e compagni, non è rendere uguali le coppie degli omosessuali a quelle, diciamo, tradizionali, ecco, tanto per intenderci. Primo. Secondo, ma perché no? Perché no? Perché consacra questa legge? Sì. Le coppie cosiddette tradizionali che si sposano vedono dei diritti, delle possibilità inferiori rispetto a quelle che sono state concesse agli omosessuali. Cioè, sono obbligati a essersi fedeli, questo vuol dire lei? Gli altri sì. Ma lo sente allora, come un peso. Ma scusi, lei lo sente. Allora, no, aspetti un attimo, no, Tommaso, ma faccia venire. Dico, lei lo sente come un peso l'obbligo di legge di fedeltà? Dovrebbe essere felice, no, scusi. Non è che lo senta come peso, no, quello che vedo non è tanto per l'obbligo di fedeltà, che poi che venga sancito con la legge o non può essere benissimo violato e nessuno ne dirà. Eh sì, però, diventa oggetto, diciamo, di prova giuridica in caso di separazione o di divorzio, sì, di colpa. In caso di litigio, d'accordo. Chiaro, le foto di lei che consuma atti innominabili con la vicina di casa la costringono poi a pagare gli alimenti alla moglie da cui si separa, capisce? Certo, è un dato certo, di fatto. Certo. Ora, ma quello che non si fa di nascosto, no, però. E nel caso però Dio la vede. Ci si sposa in 448, si va dal sindaco e si dice: noi ci vogliamo sposare, questi i nuovi adepti al matrimonio, chiamiamoli così. E che c'è di male? Vanno lì e si sposano. Poi noi ci vogliamo separare, vanno lì e si separano. In tre mesi hanno il divorzio addirittura. È la legge civilissima, tutto dovrebbe essere così per tutti, no? No, ecco, benedetti Dio, allora sempre penso sia. Io non sarebbe stato molto più coraggioso, più onesto e più fruttuoso dire: facciamo un nuovo tipo di matrimonio che vale per tutti. Allora, beh, questo è il punto, Tommaso, questo è il punto. Tutto sommato, secondo me, anche le coppie eterosessuali devono essere contente, perché in fondo questa legge apre la strada a una nuova maniera, secondo me più laica e più civile, di concepire l'unione anche tra un uomo e tra una donna, senza questa sorta di limacciosa e incombente presenza di una legge divina per cui il matrimonio è qualcosa che si compie e si sancisce nel regno dei cieli, quindi se tu umano decidi di interromperlo devi pagare, scontare, passare anni, e questo è il senso che dice esattamente Tommaso, e lo coglie in pieno. Gianetto Regassani, buongiorno. Buongiorno. Presidente Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani, AMI, autore del libro Vi dichiaro divorziati, come cambia il matrimonio in Italia, editore imprimato. In questi giorni, diciamo, figuriamoci, è il divo di tutti i giornali, perché tutti chiedono lumi e definizioni rispetto a questa legge che è passata, sì, ma non è ancora ben chiaro per tutti cosa accada, e lo dice anche Tommaso. Prendo Gassani soltanto dall'intervento dell'ultimo ascoltatore. Questa mattina non voglio spiegare cosa accade veramente, cosa accadrà veramente, ma voglio sottolineare un aspetto di invidia da parte delle coppie tradizionali rispetto a quello che è accaduto. Quello che dice Tommaso, signore, penso religiosamente, correttamente, tradizionalmente sposato, dice sì, ma adesso non vale. Questi possono innanzitutto tradirsi senza incorrere in nessun rigore di legge, poi si possono divorziare in 448 e non vale, allora anche noi. Ma mi pare che una considerazione provocatoria è molto pertinente. Oggi su quella della sera ho fatto un pezzo proprio su questo, che addirittura le unioni civili sarebbero più moderne rispetto al matrimonio. È più avanzata. Più avanzata, perché i tempi sono ridotti, per quando si dice basta non ci si ama più. Viene meno l'obbligo di fedeltà, quindi si evitano gli scontri in tribunale che possono durare anni, sia per quanto riguarda la separazione e poi eventualmente il divorzio, anzi soltanto il divorzio, e poi i risarcimenti da anni, altre cause che poi possono subentrare dopo. Credo che paradossalmente la modernità viene colta in questo impianto della legge civile. Ma quello che sto sentendo in queste ore francamente mi lascia un po' basito, ma mi riporta un po' al passato, perché nel 1970, quando ci fu il varo del divorzio, ci fu una spaccatura in Italia, anche lì ci fu una sorta di comitato per il referendum, fu fatto il referendum e contro ogni previsione, numeri alla mano rispetto agli schieramenti politici, si pensava che il divorzio sarebbe stato abrogato, e invece il voto di coscienza, quello nel chiuso del seggio elettorale, salvò il divorzio. Ma certo, perché anche 150 anni di ritardo rispetto alla Francia e una cinquantina d'anni rispetto a tutti gli altri ma paesi. Ma anche i cattolici più osservanti, nel segreto dell'urna, dove ma metà Dio della democrazia cristiana votò per il divorzio, nonostante ci furono l'aritmetica non è un'opinione, ma certo, insomma, è chiaro, votarono tutti per il divorzio, tutti dissero comunque sia credo nell'indissolubilità eterna del matrimonio, però io voglio votare, non si sa mai. Ma anche questa volta, vedi, c'è già chi propone referendum, chi propone disobbedienza civile dei sindaci, non c'è, come se fosse una sorta di questione di coscienza, capito? Siamo in Italia, perché lo stesso discorso io sentivo, l'attacco al matrimonio quando abbiamo lottato per il divorzio breve, e poi facciamo finta di non capire che c'era il turismo divorzile, la gente andava all'estero a divorziare e otteneva lo stesso risultato. Abbiamo fatto storie per la procreazione assistita, poi è dovuto intervenire la Corte Costituzionale, nessuno diceva niente in ordine al turismo procreativo, bastava andare in Spagna o in qualsiasi altro paese d'Europa e facevi quello che volevi. È sempre stato un paese dove il vietare è stato l'unico obiettivo, la parola d'ordine, vietare. Sempre sentieri tortuosi abbiamo dovuto perseguire per arrivare a una normalità. Francamente io sono senza parole, io sento dei discorsi, anche inviti alla disobbedienza, che francamente non ci fanno onore. Io vorrei capire cosa pensa un cittadino francese alla frontiera, a pochi chilometri da noi, quando sente queste notizie dai cugini transalpini, che cosa può pensare di noi? Fermiamoci un attimo però, Gianettore, prendi un attimo fiato perché devo dare la linea per le informazioni della borsa. Il tema però mi sembra molto interessante. La legge c'è, ormai uno può strapparsi i capelli, buttarsi per terra, invocare le vendette divine. La legge c'è e su questo siamo tutti tranquilli. Quello che vogliamo capire adesso, questa legge è un'apripista per una forma più civile, più laica, per concepire anche tutte le unioni, e questo residuo senso di quasi invidia di quelli che pensano che adesso sono più privilegiati, hanno più diritti, è meglio per loro, questa riflessione non potevano farla anche prima e pensare: riformiamo quello che è l'istituto del matrimonio, fermiamoci un attimo a distinguere quelli che sono lo stato civile, la vita legata appunto ai nostri diritti, legati al fatto che siamo cittadini, e quelle che sono le osservanze che devono comunque avere le persone che hanno una visione della vita ispirata a dei precetti religiosi. A tra un istante. Pioneer Investments, leader globale nella creazione di soluzioni di investimento. Vi presenta Melog, cronache meridiane. Oggi stiamo analizzando i risvolti emotivi dopo l'annuncio della legge per le unioni civili. Ci spiegherà nei particolari cosa in realtà sia accaduto l'avvocato Gianettore Gassani, presidente dell'Associazione degli Avvocati Matrimonialisti Italiani, ma voglio sentire qualche ascoltatore. Il tema è quello: ci stiamo in qualche maniera dibattendo sul fatto che esistono alcune differenze rispetto al matrimonio tradizionale, che da un certo punto di vista rendono deficitario di qualcosa questo istituto per chi lo voleva completamente allineato, e per altri invece c'è una punta di invidia perché tutto sommato sembra tutto più facile. Giulio da Reggio Emilia, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Dunque sì, io premetto, diciamo qual è la mia posizione, così si capisce meglio quello che dico. Io sono un cattolico praticante, devo dire anche che ho votato per Alfano alle ultime elezioni, però le due cose non sono necessariamente collegate. No, non sono collegate, certo, però questo fa capire, secondo me. Però scusi, posso dire una cosa? Perché per lei è più importante dirmi come appoggio al fatto sia cattolico praticante per chi ha votato, piuttosto che dirmi lo faccio anche nella mia pratica quotidiana di vita, perché credo che sia questa la vera strada? Ma dunque, innanzitutto quella della Chiesa è una proposta di libertà, e quindi uno può decidere in tutta libertà se sposarsi, non sposarsi, è una proposta di libertà, e la Chiesa non è che obbliga, cioè la vedo... No, ma la mia domanda è: perché è più importante per lei definire una scelta politica piuttosto che una scelta esistenziale, che mi sembrerebbe prioritaria rispetto ad ogni possibile, giustissima, non criticabile scelta politica? Sì, no, ma io sono d'accordo su questo che dice. Infatti io sarei stato per non stralciare l'obbligo di fedeltà, e secondo me, e dico purtroppo questo perché secondo me, come dice tra l'altro anche la Chiesa, è molto importante il progetto di vita, ed è importante per chiunque, sia per coppie che hanno sesso diverso, sia per chi vuole promettersi amore per tutta la vita, anche se ha stesso sesso. Allora io dico... Però Giulio, scusi Giulio, quindi mi conferma l'idea che è stato tolto, per dire, così almeno non assomiglia troppo al matrimonio, ecco. Esatto, è stato tolto proprio per poter dire: ah no, guardate, è tutt'altra cosa rispetto al matrimonio. Mentre invece, come lei correttamente, secondo me in modo molto chiaro, ha detto nella trasmissione precedente, era qualche settimana fa, mi sembra strano, aveva fatto... infatti, certo, giustamente, ha ragione lei, però, capito? Adesso che è stata sancita, dico, beh, vedi, non hanno nemmeno questa sorta, visto dall'avvocato matrimonialista, dice, è l'elemento per cui per anni si va avanti a fare dispute nei tribunali con le prove e con le controprove. Ma sa perché questa? È una polpetta avvelenata per delle coppie che volessero, secondo me, tra l'altro, adottare dei figli. Perché il giudice che deve assegnare un'adozione deve guardare, secondo me, anche la stabilità della coppia. E allora, se questi non hanno l'obbligo di fedeltà e possono divorziare in pochissimo tempo, il giudice, prima di affidare un'adozione ad una coppia omosessuale che non ha l'obbligo di fedeltà, che in pochissimo tempo si può sciogliere, magari ci pensa 10 volte. E io su questo punto, tra l'altro, le riferisco il parere mio e anche il parere di molti altri cattolici come me, praticanti, eccetera, che io penso che effettivamente per un bambino sia meglio avere un padre e una madre, perché se la natura ci ha selezionati così, beh, qualcosa ci sarà. Però nel buco nero che abbiamo in tutto il mondo, in questi orfanotrofi che sono dei pozzi di disperazione per questi bambini, io dico: ok, non ti posso dare 100, un padre e una madre, ti posso dare 90, due genitori dello stesso sesso, ma perché non ti posso dare questo e toglierti da quel pozzo di sofferenza in cui sei messo? Lei però mi sta dando la dimostrazione, Giulio, che si può benissimo avere una fede, una professione religiosa, un'appartenenza, ma avere anche una sua autonomia di pensiero. Lei sta dicendo cose molto giuste dal suo punto di vista. Lei dice tutto il meglio che starsene chiusi in un posto di sofferenza. Io come credente non giudico corretto rispetto al disegno di Dio che esista una coppia omosessuale, però tutto sommato consiglio che è meglio che lo tengano loro un bambino piuttosto che un orfanotrofio. Ma non c'è dubbio. Mi fa piacere avere ascoltatori che ragionano con la loro autonomia di pensiero e non per partiti presi. Grazie Giulio. Michela, buongiorno. Buongiorno. Io volevo solo dire che per conto mio, quanto riguarda il discorso delle coppie eterosessuali, non trovo assolutamente necessario averli inclusi in questa legge, perché una coppia eterosessuale non c'ha problemi per sposarsi civilmente e avere tutti i diritti a cui ambivano. E invece la coppia, diciamo, omosessuale, penso che sia giusto, è stato giusto dover insomma regolarizzare in qualche maniera, anche se poi ecco col fatto della non fedeltà, non l'obbligo alla fedeltà, si è voluto un po' distinguere questo discorso dal matrimonio. Però vede Michela, è giustamente una cosa di ambigua e difficile interpretazione, perché da un certo punto di vista viene considerato un privilegio non meritato. Adesso la legge è stata passata, prima che la legge passasse, come giustamente ci ha fatto candidamente osservare il nostro ascoltatore cattolico praticante, è stato messo apposta per creare un distinguo. Le coppie non eterosessuali non hanno l'obbligo di fedeltà, perché la loro è una cosa diversa dal matrimonio. Giulio Alberto, buongiorno. Buongiorno, vi sento un attimo poco. Allora, quello che volevo dire è che io sentivo parlare di invidia nei confronti delle coppie, delle unioni civili che non hanno l'obbligo. Malcelata invidia, però sì, dice, vedi, beati loro, non devono rispondere perlomeno davanti a un giudice l'essere fedeli o meno, è una cosa se la vedono fra di loro. Cioè, capisco anche un po' il senso provocatorio, io però al contrario, cioè, mi trovo in una condizione di invidia verso chi riesce a pianificare la propria vita a lungo termine. Cioè, il matrimonio cattolico è una cosa che io invidio moltissimo, pur dato i valori che stanno dietro al matrimonio cattolico, la fiducia che si mette in un'altra persona, e in questo contesto in cui ci troviamo di affettività liquida, con le cose che cambiano spessissimo, con relazioni che si interrompono, divorzi che si fanno con una facilità estrema, ho moltissime persone che conosco i cui genitori sono separati. Io fortunatamente ho i miei che stanno insieme da più di 30 anni e ancora sì, concluda però. Cosa voleva dire? Concludo dicendo, cioè, ha senso fare una legge che faciliti ancora di più questa liquidità, questa mobilità affettiva anche? Questa è la mia domanda. Adesso le rispondo, intanto io dal mio punto di vista, poi le risponderà l'avvocato Gassani dal punto di vista giuridico. Non vedo perché la liquidità affettiva debba essere considerata un limite, secondo me fa parte della contemporaneità. Siamo capaci a distribuirci in decine di migliaia di persone che gestiamo nei nostri social network, è un po' difficile poi pensare che la nostra affettività debba essere a vita suggellata su una persona. È un bel progetto, un progetto sfidante, è un progetto molto romantico, è un progetto che denota grande tenuta etica, ma mi sembra un po' difficile che sia poi in realtà una prospettiva che il futuro potrà mantenere con questa sorta di protezione totale. E le dico di più, le persone che su questo si impegnano sanno benissimo che comunque è un impegno, sì, fatto di fronte al Padre Eterno, ma sanno che a cui si può benissimo trasgredire, purché poi ci si penta. Gianetto Regassani, vediamo un po' se sugli interventi ci sono stati, riusciamo a dare qualche chiarimento in più, proprio da un punto di vista strettamente giuridico. Ma io sento sempre i soliti commenti, ormai da anni, ho letto anche su Google prima i commenti dei storici di quando fu varato il divorzio, l'attentato alla famiglia anche col divorzio premio dell'anno scorso, sempre i soliti commenti. Noi parliamo di attentato alla famiglia e dimentichiamo che il vero attentato alla famiglia è far pagare 600 euro all'asilo nido, che le banche non erogano più mutui, che i canoni di locazione a Roma e a Milano sono soltanto per ricchi o per gente che evidentemente ruba. Questi sono gli attentati alla famiglia. La famiglia italiana non è più ormai regolamentata solo dal matrimonio. Il matrimonio sta finendo e chi si batte in petto per per salvare il matrimonio, dovrebbe cominciare a capire ma quale politica è stata fatta negli ultimi 30 anni per salvaguardare l'istituto del matrimonio, che io ritengo sempre il caposaldo del nostro paese. Cosa è stato fatto? Noi siamo passati dal 500.000 di matrimoni nel 1970 agli appena 190.000 dell'anno scorso. Cioè praticamente se non ci fosse il centro-sud, il matrimonio in Italia sarebbe completamente scomparso. E invece di parlare e di verificare come incentivare le giovani coppie per mettere su famiglia, noi che cosa facciamo? Cerchiamo di vietare altre persone che si amano in maniera diversa, come se maledicendo l'istituto delle unioni civili noi salvaguardiamo il matrimonio. Questo è veramente un discorso senza senso. Cerchiamo di guardare in faccia la realtà piuttosto. Io credo che le unioni civili non hanno niente a che vedere con la crisi del matrimonio e della coppia nel nostro paese. Io sono un avvocato divorzista, so perfettamente quello che sto dicendo e soprattutto quando leggo le statistiche sono le uniche cose che mi interessano, cioè il matrimonio in Italia è destinato fra 20 anni a scomparire. Quindi o noi facciamo una politica sociale per incentivarlo, oppure è inutile maledire altre forme di amore che non hanno niente a che vedere con questa crisi che dura da 30-35 anni nel nostro paese. Poi diciamo si apre un nuovo target, una nuova fetta di mercato, ma nulla a che fare con il matrimonio tradizionale, non inquina nulla. Ma io vedo giovani, e non mette vedo nessuna giovani crisi. Che si amano ma non possono sposarsi perché mettere al mondo un figlio significa suicidarsi. Oggi si sposano i ricchi o gli incoscienti. Oggi una persona con 1.000 euro al mese e anche con 2 stipendi non ce la fa. Non ce la fa una coppia oggi ad andare avanti. E quindi si fanno i figli come i cinesi. Un figlio per coppia, quando esce un figlio. Quindi non vogliamo ragionare sul fatto che la famiglia, tra virgolette, tradizionale è la prima che è malata di cancro, che dovremmo cercare di fare di tutto per salvarla, perché io sono comunque adesso un tifoso della famiglia, in tutti i sensi, e quindi anche quella, soprattutto quella legata al vincolo matrimoniale. Ma quali sono le prospettive per i giovani oggi per sposarsi? Perché tutti quelli che sostengono la famiglia tradizionale non scendono in piazza, fanno le barricate per far capire che non è possibile che le banche ormai diano i mutui soltanto ai miliardari e che i canoni di locazione in una città come Roma sono proibitivi e che avere un bambino e mandarlo in un asilo nido significa spendere tutto il proprio stipendio? Ma questo è il problema, non ridurre i tempi del divorzio attentato alla famiglia. Tu dici in realtà i Family Day avrebbero senso in questa direzione di creare strumenti concreti per vogliamo salvare il matrimonio, allora facciamo in modo che la gente si sposi e che abbia possibilità di andare avanti, allora salvi il matrimonio, non cercando di mettere nella riserva indiana gli omosessuali, perché questo è vero, è la vera ipocrisia di fondo del nostro paese unico al mondo come quello che Ma fermati un attimo, Gianetto Rigassani, interrompiamo solo un secondo, riprendiamo fra un po'. 800 24 00 24. Melog, cronache meridiane. Stiamo parlando di tutto quello che ancora non è stato detto, pensato, immaginato, nessuno ha avuto il coraggio di dire, sulle unioni civili. Sta venendo fuori un quadro interessante. Daniele, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, ne parlavo con la sua assistente. Grazie a Dio non ho assistenti. Due esempi diversi. Il mio era questo, infatti questa legge penso sia stata fatta anche per la manifesta infedeltà delle coppie omosessuali. E che so che ne sa? Le sue conoscenze private, voglio dire. Le posso dire le mie conoscenze private sulle coppie eterosessuali? Le faccio un elenco di infedeltà di coppie eterosessuali. Siamo più o meno pari. Vuol dire l'essere umano allora non è fedele. Mettiamo in dubbio il fatto che non è fedele. Per principio ho paura che non sia. E allora qual è il problema, Daniele? Ma il problema è che in questo modo, il discorso che faceva anche prima il signore sulle adozioni eccetera, sicuramente è uno svantaggio per chi si sposa in chiesa quindi ha un rito diverso. Il problema, ripeto, è la grande infedeltà e quindi il ricambio veloce. Questi quattro esempi che io ho vicino, questi quattro esempi, praticamente un anno e mezzo, i più anziani diciamo hanno resistito 3 anni e mezzo. Questo cosa vorrebbe dire? Che diciamo le coppie eterosessuali hanno una maggior tenuta di fedeltà. Maggior tenuta anche perché hanno dei vincoli sociali, religiosi, capisce che li possono tenere uniti perché... La libertà dell'uomo non è tagliare i vincoli, non è meglio non averli vincoli, in modo che uno sceglie per proprio piacere o per proprio... è quello che diceva Cruciani, cioè che è meglio, ma che c'entra vincoli, è meglio non averne in nessun senso. Ma no, vincoli, no, vincoli. Garbi l'aveva detto, che sì, non bisogna assolutamente. Ma i vincoli dovrebbero essere dei vincoli interiori. Io mi impongo una regola di vita perché penso e sono convinto che per me sia la strada giusta. Questo a me piace, ma non che uno mi dice questo deve essere il vincolo perché è scritto così nelle porte del cielo. E io le porte del cielo, siccome no, non le vedo, non so se... sono d'accordissimo, capisci? Con lei, però quello che c'è, la tradizione, soprattutto in Italia, come era in Spagna. Ma grazie a Dio la tradizione... In Spagna è andata avanti alla grande, però la unione fra omosessuali non ha avuto nessun problema. Sì, le tradizioni, so, le tradizioni. Riusciremo a essere come gli spagnoli, me lo auguro sinceramente. Sì, le generazioni passano, non vedremo noi cambiamenti, tutti i cambiamenti che avrà il mondo. I nostri nonni si rivolterebbero nella bara se vedessero come è il mondo oggi, ma è giusto che sia così, l'essere umano si evolve. E la capacità di evolversi significa la capacità di rimettersi in gioco continuamente. Brando, buongiorno. Sì, buongiorno, che piacere sentirla. Senta, secondo me, ma sono già stato parzialmente già un ascoltatore, ha già detto un pochino quello, secondo me è un grosso tentativo di delegittimare la cosa omosessuale, il fatto che non ci sia il vincolo di fedeltà. Sicuramente ci saranno problemi in più nell'assicurare un bambino, magari chissà, speriamo in un futuro che ci sia l'adozione anche per queste coppie, il fatto che ci si trovi di fronte a un vincolo che non ha i tradizionali, tra virgolette, canoni di fedeltà e di stabilità. Perfetto Brando, lei ha detto esattamente quello che l'ascoltatore che aveva chiamato nella prima parte definendosi osservante, ha detto guarda è una polpetta avvelenata. Allora Gianetto Gassani, è veramente una polpetta avvelenata dal punto di vista della possibilità un domani di dimostrare di essere una coppia in grado di sostenere l'educazione, il mantenimento e la tenuta di un bambino? Ma innanzitutto si parla delle adozioni omosessuali che in questo momento non sono assolutamente contemplate neanche nella mente del legislatore, perché un conto è la stepchild adoption che in effetti già esiste, che un già conto esiste è la a possibilità tutti gli effetti. Di due persone dello stesso sesso di andare ad adottare, che non è assolutamente possibile, che francamente la vedo una cosa lontanissima, mi sembra un discorso assolutamente inutile. Due persone dello stesso sesso non possono assolutamente adottare, solo lo potrebbero fare se un tribunale accoglie un'istanza particolare dell'adozione del figlio del compagno, come è già avvenuto a Roma con il giudice Cavallo, e basta, ma non è possibile l'adozione delle persone dello stesso sesso e non credo francamente che a breve questa ipotesi possa avverarsi. Però il fatto che sia stata messa questa clausola, perché vedo che lo dicono in tutti, me lo stanno ripetendo molte persone, dice sì, perché abbiamo già dato noi una sorta di stigma alla coppia omosessuale, diciamolo proprio nella chiarezza così, di non propensione alla tenuta etica, e quindi mai un domani, ammesso che qualcuno rimettesse in discussione questa cosa, con questo diciamo assetto di unione potrà essere possibile, perché sono persone dissolute. Io credo che questa legge sicuramente subirà delle modifiche e sicuramente si potrebbe anche riproporre il tema dell'obbligatorietà della fedeltà nella coppia omosessuale, anche perché si potrebbe... Oddio, tornarci indietro mi sembra molto difficile, una volta assaggiata mondo, l'area di libertà mondo, è difficile. È il mondo degli omosessuali che sta protestando, perché si ritiene in qualche modo considerato un po' una sorta di coppia di serie B, in quanto non essendoci un caposaldo della vita insieme, potrebbe anche sembrare come un modo per dire vabbè, voi siete omosessuali, diamo per scontato che la vostra unione possa essere più così... Però ti rendi, più liquida, Gianettore, ti rendi conto, ti rendi conto di cosa stiamo parlando, Gianettore? La fedeltà, se uno vuole, la può seguire tutta la vita, anche il mio pensiero per il proprio dito mignolo, cioè nessuno lo impedisce. Anche perché le coppie eterosessuali ormai praticamente rispetto alla fedeltà sono come il diavolo e l'acqua santa, insomma io mi rendo perfettamente conto che ormai l'80% della gente che viene nei nostri studi perché ci sono state infedeltà, ma anche eclatanti, anche clamorose, anche ripetute, quindi non è che si può parlare di un discorso eterosessuale o omosessuale sulla fedeltà. Indubbiamente io saluto con favore tutto ciò che evita l'asprezza di un giudizio, perché per la fedeltà o per la infedeltà in Italia sono fatti dei processi infiniti. Io comunque, Gianettore, e qui la sigla ci porta via, trovo paradossale che si cerchi uno strumento di ordine superiore per sancire qualcosa che può essere comunque perseguito con uno sforzo di volontà individuale. Alla prossima.